Allora, ancora con delle studenti qua dal corteo dell'8 marzo. Chi siete? Siamo della scuola Ludovico Pavoni. E quindi è una scuola media? Sì. E perché siete qua? Stiamo manifestando per la violenza sulle donne. E è importante essere qua? Siete tutte ragazze a questo striscione? Sì, siamo tutte ragazze e cioè, ci vediamo da sempre, ogni anno veniamo. E l'8 marzo, il 25 novembre, e facciamo uno striscione. Che avete scritto sullo striscione quest'anno? In giro da sole vogliamo andare, nessuno per strada ci deve toccare. Perfetto, e andate in giro da sole? No, ci proviamo. Abbiamo paura comunque, non siamo sempre sicure. Ma la cosa importante è andare insieme alle amiche e alle compagne, mai da sola sola, insieme alle altre, giusto? Sì, le cose importanti sarebbero non avere timore di uscire la sera quando è buio. Questo è quello che vorremmo. Grazie. Grazie.